ti ha fatto entrare? Cos'hai diritta fino a farmi male? E dimmi, dimmi come ci sei arrivata, così serena come una passeggiata. Sono un paese di piccoli tortuosi, di salite e discese, di giardini ombrosi, piscia di gatto contro a portoni chiusi, piccole scale per luoghi preclusi. Dimmi, dimmi, com'è che l'hai trovata, una strada così aperta ed illuminata. E dimmi, dimmi, quanto ci vuoi restare, in questa piazza grande quanto il mare. Ma tu soltanto dimmi che resterai, seduta nel bel mezzo di tutto questo cielo. Mi prenderai per mano, mi abbraccerai per strada, davanti a tutto il mondo poi mi bacerai. Lupo senza un branco non teme solitudine, i passi sul selciato tracciano la sua scia, capelli spettinati ringhiano l'abitudine, per inventarsi i giorni non cerca compagnia. Ma dimmi, dimmi come ci sei passata, tra le mie scuse e tutti i miei sentieri, così pulita come una coltellata che taglia in mezzo tutti i miei pensieri. Come ci sei passata, tra le mie scuse e tutti i miei sentieri, così pulita come una coltellata che taglia in mezzo tutti i miei pensieri. Na, na. Che do bali, mi vaga qua.